Nascere per far famiglia, cacciata onesta, in nome dalla testa sarà vostra parente alla lontana appunto. Vostra parente e mia sorella, gioia! E quando di vederla, quando mi fia concesso, stasera sol crepuscolo, stasera, adesso, adesso, per carità, dottore, per carità, dottore, frenate il vostro ardore, frenate il vostro ardore, quietatevi, calmatevi, ah, per carità, dottore, frenate il vostro ardore, ah, dottore, in carità. Fra poco qui verrà. Davvero? Preparatevi. La porta qua, oh caro, calmatevi, oh caro, audite, non c'è va, non c'è va, non c'è va, correte, correte, oh caro, porta qua. Segnamento e alla mia morte quanto possiedo. È vero. Minacciando in caso di rifiuto diseredarvi e a tor di ogni speranza ammogliarmi se d'uomo. È vero. Orbene, la sposa che m'offersi or son due mesi, ve l'offro ancor. Non posso. Rispettate una giovine povera, ma onorata e virtuosa. Siete proprio deciso? Irrevocabilmente. Orben, pensate a trovarmi un alloggio? Così vi discacciate. La vostra ostinatezza d'ogni impegno mi scioglie. Fate di provvedervi. Io prendo moglie. E prender moglie? Sì, signore. Voi? Quel vesto in carne e ossa. Perdonate la sorpresa. Io prendo moglie. Oh, questa è grossa. Vuoi prender moglie? L'ho detto e lo ripeto. Io Pasquale da Corneto, possidente, qui presente in carne ed ossa, qui presente in carne ed ossa, da un servio dal colore. Io Pasquale da Corneto, che mi vado ad ammogliar, e mi vado ad ammogliar. Voi scherzate? Scherzo, un colpo. Sì, sì, scherzate. Lo vedrete, nuovo giorno, sono il vero stagionato, ma ben molto conservato, e per forza e vigoria, me ne sento da prestare. Voi frattanto, signorino, preparatevi a sfrattar. Voi frattanto, signorino, preparatevi a sfrattar. Preparatevi a sfrattar. Ci vuole a questa mania i miei piani a rovesciar. A rovesciar. Capacitato, manco male. due parole ancor di volo. Santi tutto ad ascoltarvi. Incantar si puote tu solo, ben fareste consigliarmi. Il dottore Malatesta è persona gravonesta. No, per tale. Consultate. È già belle consultato. Vi sconsiglio. Anzi, al contrario, mi incoraggiano e incantato. Come, come? Ma questo poi? Anzi a dirla qui fra noi, anzi a dirla qui fra noi. La capite? La zitella? Ma silenzio. E sua sorella? Sua sorella? Che mai sento? Sua sorella? Sua sorella? Del dottore? Del dottore? Del dottore? Mi fa il destino, dico, perdo colei che adoro. Conforto privo, misero che pur vivo, ma non si dà martoro, è uguale al mio martoro. Ogni conforto privo, misero che pur vivo, ma non si dà martoro, è uguale. Amico e belle, osa fare un mondo, non osa fare un mondo. In sasso si è cangiato, in sasso si è cangiato, la foga e il crepacuor, la foga e il crepacuor. In sasso si è cangiato, la foga e il crepacuor, la foga e il crepacuor. Si roda gli sta bene, bene, il conforto ma quel che ti conviene, misero a te ti conviene, impari lo sventato, non si dà martoro, a fare il bello amor, impari, impari. Martoro, il conforto privo, si roda gli sta bene, bene, bene, bene, bene, a quelle che ti conviene, bell'umore al mio marito si roda gli sta bene bene bene bene bene impari non è paro a fare il bello si roda gli sta bene bene bene bene bene impari non è paro a fare il bello impari a fare il bello impari a fare il bello impari Thank you.

da quella faccia doppia del dottore, sposo una sua sorella, mi scaccia di sua casa, mi disereda infine. Amor mi impone di rinunziare a voi. Lascio Roma oggi stesso e quanto prima all'Europa. Addio, siate felice, bla bla bla bla bla bla. Questo è l'ardente mio voto, il vostro Ernesto. Le solite pazzie. Ma segli parte. Non partirà, va certo. In quattro salti son da lui. Della nostra trama lo metto a parte. Ed il rimane e con tanto di cor. Ma questa trama si può sapere qual sia? A punire il nipote che oppone le sue voglie. Don Pasquale è deciso a prender moglie. Già me il diceste. Orben io, suo dottore, vistolo così fermo nel proposto, cambio tattica e tosto nell'interesse vostro in quel d'Ernesto mi pongo a secondarlo. Don Pasquale, so che io tengo al convento una sorella, vi fo passar per quella, egli non vi conosce, e vi presento, pria ch'altri mi prevenga, vi vede, resta cotto. Ma benissimo! Caldo, caldo vi sposa, Carlotto, mio cugino, ci farà da notaro, arresto poi, tocca pensare a voi. Lo fate disperar, il vecchio impazza lo abbiamo a discrezione, allora... Basta! Ho capito! Va benone! Pronto io son, purché io non manchi, la parte non è questa. segno. Ma se questa è una lezione, quello corpo poca stretta, poi proviamo questa trazione, poi proviamo questa trazione. Brava, brava, brava! Brava, brava, briconcella, va benissimo così. Brava, brava, brava, sì, così. Ma brava, va benissimo così. Bene, brava, brava, briconcella, briconcella, va benissimo così. Collo torto, torto. Brava! Bocca stretta, stretta. Ma brava! Vado! Sì, sì, andiamo! Vai, vai, ci vengo! Oh, dallo zio cacciato e da tutti abbandonato. Mi restava un amico e un coperto nemico, ti scopro in lui che a danni miei congiura. Fecei d'esprimere in un foglio i detti miei. Ora in alta contrada i giorni grani a trascinar si vada. Perché non fare avete introdotto il dottor Malatesta. E chi è con lui? Ricordatevi bene, nessuno ha più da entrar. Guai se lasciate rompere la consegna. Adesso andate! Per un uomo sui 70, zitto, che non mi senta la sposina, conviene dir che son lesto e ben portante. Con questo boccon poi di toilette. Al conviene. Eccoli! A te mi raccomando, convento naturale il turbamento per natura un po' selvatica van suoi farla voi si snasse voce mosse e voce mosse e voce portamento tutte le semplicità tutte le semplicità radichiare un gran portamento portamento risponde la verità la signora un gran portamento ti serve se lei ti serve la verità la signora un portamento se lei se la verità non temete star solo mi fa male cara mia sola non siete ci son io c'è Don Pasquale come come mi sfida coraggio non correte non correte non correte come cara, come cara, come cara, come cara, come cara, come cara, come cara, come cara, come cara, nella sua come cara, come cara, come cara, come cara, come cara, come cara, come nella sua semplicità. Come cara, quanta cara, nella sua semplicità, la se voce, quanta cara, nella lei, semplicità, tutto in lei, quanta cara nella sua, semplicità, quante cara nella sua impazzire lo farà quante servo come va ti servo come farà abbiate paura, e Don Pasquale, padrone e amico mio, il re dei galantuomini, rispondete al saluto. Grazie, serva. O ciel, che bella mano! E già conta quest'ora. Oh, che baggiano! È un incanto, ma quel velo non oseria son certo a sembiante scoperto parlare un uom. Prima l'interrogate, vedete se nei gusti vi incontrate, poscia vedrem. Capisco, andiam, coraggio. Posto che ho l'avvantaggio, anzi mille signore, fratello, il dottor Malataista giunto e volea dire. Perde la testa, rispondete. Son serva, mille grazie. E volea dir che alla sera la signora amerà la compagnia. Niente affatto, al convento si stava sempre sole. Qualche volta al teatro. Non so che cosa sia, ne sa per bravo. Sentimenti ch'io lodo, ma il tempo uopo e passarlo in qualche modo. Cucire, ricamar, far la calzetta, vado nella cucina, il tempo passa presto. Ah, malandrina! Fa proprio al caso mio, quel vel, per carità! Cara Sofronia, rimuovete quel velo! Non oso, in faccia l'uom! Ve lo comando! Obbedesco, fratello! Misericordia! E fu, dite, buona barba! In mezzo al cuore, per carità, dottore, ditele, ditele, se mi vuole. Mi manca le parole, sudo, agghiaccio, son morto. Via coraggio, mi sembra ben disposta. Ora le parlo. Sorellina mia cara, dite vorreste in breve quel signore vi piace? A dirlo ho soggezione. Coraggio. Se sei voi il gran babione. Consente, è vostra! Ah, giubilo, beato me! Te ne avvedrai fra poco! Col resto per notaro! Per tutti i casi nobili, ho tolto me quel mio che in anticamera or l'introduco! Oh, caro! Quel dottor pensa a tutto! Ecco il notaro! Fra da una parte, eccetera, Sofronia va la testa. Domicilate eccetera con tutto quel che resta e d'altra parte eccetera Pasquale da Corneto eccetera eccetera coi titoli secondo il consueto eccetera entrambi qui presenti volenti volenti e consenzienti matrimonio in regola, a strigli che deve si va, si fa. Avete messo? Ho messo? Sta ben. Scrivete appresso. Il qual, prepago, eccetera, di quanto egli possiede, immobili ed immobili, donata vivi e cede, alla suddetta, eccetera, sua moglie dilettissima, finora all'armetà. Sta scritto. E intende d'ordina, che sia riconosciuta, in questa casa e fuori, padrona, ampia, assoluta, e sia da tutti i singoli di casa riverita. Ita. Servite d'obbedita, con zelo e fedeltà. Rivele nel vostro cuore quest'atto di bontà. Steso il contratto, le firme. Ecco la mia. Cara sorella, or via si tratta di segnar. Non vedo i testimoni, un solo non può star. Inghierno, inghierno, Mascalzoni! E questo? E questo? E non sa niente. Inghierno, inghierno, inghierno, inghierno, inghierno, inghierno, Mascalzoni! Dove non è? E tutto per tuo bene, e tutto per tuo bene. Se vuoi nonnina perdere, non hai che a seguire. Se vuoi nonnina perdere, non hai che a seguire. Se vuoi nonnina perdere, e tutto per tuo bene. Sì, se vuoi nonnina perdere, non hai che a seguire. Ancora, con Pasquale. certa soddisfare. E dir vorrà, prega mia madrina, che non mi più, non so. Un uomo col voi decrepito, qual voi pesante grasso, condur non può una giovane decentemente a spasso. Bisogno d'un braccio, sono un mio cavaliere. Ah, questo poi scusatemi, ma questo non può stare. Non può stare perché? Perché non voglio. Non lo volete? No. No. Oh. dalla mia gente. Or nasce un altro imbroglio. Thank you. Madonna Santa! Vediamo, alla modista 100 scudi, obbligato, al carrozziere 600, poca roba, 950 al gioielliere, per cavalli, al demonio i cavalli mercanti e il matrimonio. Per poco che la duri in questo modo, mio caro Don Pasquale, arrivederci presto all'ospedale. Che cosa vorrà dir questa gran gala? Escir sola a quest'ora nel primo dì di nozze, debbo pormi ogni costo ed impedirlo, ma si fa presto a dirlo, colei ha certi occhiacci, certo far da regina, ad ogni modo può provarmi, se poi fallisce il tentativo. Eccola a noi. Signorina, in tanta fretta, dove va? Vorrebbe dirmi. È una cosa presto detta. Al teatro divertirmi. Ma il marito, con sua pace, non vuole. Talvolta il marito vede in pace, quando parla non s'ascolta, non s'ascolta. Il marito quando parla non s'ascolta, non s'ascolta. Oh, non mettermi a cibo. Resterà. Ma stai cieco, e non far il seno, per mia morte lo scolpire. finita, Don Pasquale, è finita, Don Pasquale. Vai per romperti la testa, vai per romperti la testa. Altro affare non ti resta, altro affare non ti resta. Andarti ad affogare. Non sono un marito, non sono un marito. Adorata Sofronia, adorata Sofronia! Ehi, ehi, che affare questo? Dalle 9 alle 10 della sera sarò dietro il giardino dalla parte che guarda a settentrione. Per maggior precauzione fa, se puoi, di introdurmi per la porta segreta. A noi ricetto daran sicuro l'ombre del boschetto. Mi scordavo di dirti che annunzierò cantando il giunger mio. Mi raccomando, il tuo fedele addio. Questo è troppo, costei mi vuol morto arrabbiato. Non ne posso più, perdo la testa. Si chiami la testa, Luisa, Mario, Franco. Correte dal dottore, ditegli che sto male, che venga tosto, o crepare o finirla ad ogni costo. Thank you. senza perdere un momento, conduciando al podestà, senza perdere un momento, conduciam dal podestà. Che vi pare del pensamento? Dico il vero, non mi va. Riflettete, la colpevole, me sorella, e moglie vostra. Non stiamo l'onta nostra sopra i tetti a divulgar espediente più a proposito, procuriam, si procuriam d'immaginar. Espediente più a proposito, procuriam, si procuriam d'immaginar. Io direi, sentite un poco, noi due soli, andiamo sul loco. Nel boschetto ci appostiamo, noi due soli ci appostiamo, e da tempo ci mostriamo. E fra preghe, fra minacce, ed avvertir l'autorità, facciante vuol prometter che la cosa vestirà, e fra preghi e fra minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciane due promettere che la cosa restirà, si fra preghi e fra minacce d'avvertir l'autorità. Ci facciane due promettere che la cosa restirà, ci facciane due promettere che la cosa restirà, ci facciane due promettere che la cosa restirà. Don Pasquale, che vi par? Perdonate, perdonate, non può star. Quando scioglimento, poca pena il tradimento, vada forte il caso mio, altri fatti non può far. È un affare delicato, vuol benesser ponderato, la prudenza con rigore, qui bisogna ponderar. La prudenza con rigore, qui bisogna conciliar. Io direi, l'ho trovata, benedetto, dite presto. Nel boschetto quatti ci appostiamo, di là tutto dir possiamo, se costante tradimento la cacciate su due piedi. Bravo, bravo, bravo, bravo, va benone, sono contento, va benone, sono contento, sono contento. Bravo, bravo, bravo, bravo, sono contento. Accordiate di potere fare dire a nome vostro tutto quello che mi par. Carta bianca vi concedo, fate pur quel che vi par, quel che mi par, quel che vi par. Aspetta, aspetta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina. Già ti preme, già t'ha raggiunto, tutto in un punto, l'hai da scontar. Vedete se giovino raggiungere il capo, le solite tenere i sospiri e lacrime. Vedete se giovino solite tenere i sospiri e lacrime. Ma voglio prendere la mia rimessa, se voglio prendere la mia rimessa, e ti prenderà pure a vedere il mar, ti prenderà un capo a vedere il mar. La mia vendetta, la t'ha raggiunto, e il punto l'hai da scontar. Tutto in un punto l'hai da scontar, tutto in un punto l'hai da scontar. Il poverino sogna vendetta, non sa il mestiere. Ma ricchia amara di pietà non potrà. Attenti ben, mi raccomando. Corpo di di mille bombe. Don Pasquale, lasciate fare a me. Solo badate a non smentirmi. Oh, carta bianca. È inteso. E il ballo adesso viene. Stupor, misto di sdegno. Attenta bene. Sorella, udite, io parlo per vostro ben. Vorrei risparmiarvi uno sfregio. A me uno sfregio? Benissimo. Domani in questa casa entra la nuova sposa. Un'altra donna? A me un'ingioia? Ecco il momento di montare in furia. Sposa di chi? D'Ernesto Lanolina. Quella vedova scaltra. Bravo, dottore! Siamo a cavallo! Colei qui, a mio dispetto! Noi le dio sotto lo stesso tetto! Giammai porta piuttosto! Ah, lo volesse il ciel! Ma piano un poco, se queste nozze poi fossero un gioco! Posso sincerarmi prio? È giusto, Don Pasquale non c'è via. Qui bisogna sposare quei due davvero, se no costei non va. Non mi far vero. E di casa qualcuno, Ernesto. Eccomi. A voi, accolta Don Pasquale la mano di Norina e un anno assegno di 4.000 scudi. Ah, caro zio, è fiaver! Visita non v'è più tempo, dite di sì! Ma pongo! Io consento! Corri a prender Norina! Prendala e vi posposi sul momento! Senza andar lungi, la sposa è presta! Come? Spiegatevi! Norina è questa! Questa è Norina, che tradimento ad un questo cronia! Non in convento! È il matrimonio! Il mio pensiero, in modo togliervi di fargli un bene! Arrivo! Siate buono! Tutto dimentico! Siate felici! Unisca il ciel. Bravo, bravo, Don Pasquale, bravo, bravo, Don Pasquale. La morale in tutto questo assai facile di trovarsi, ve la dico, presto, presto, se vi piace scemo, dice il bello, chi s'ammoglia in vecchietà sì, bacia il mio mondo malello, bene scemo, dice il bello, chi s'ammoglia in vecchietà, bacia il mio Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella,